La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16, 31 primi, questo venerdì 7 di ottobre. Siamo in diretta alle 16.31 dagli studi di Milano di Radio 24, una Radio 24 che a Milano è sempre più assolata. Tra un po', venendo qui, c'erano dei bambini che saltavano solo con la maglietta. Ma vabbè, l'estate è lunga. Detto questo, grazie per l'ascolto, come sempre in diretta e in podcast. Vi ricordo il numero di telefono 800 24 00 24 per intervenire, 3492 38 6666 per le vostre opinioni. Vi dico subito di che cosa parliamo: è l'aggiornamento di un tema che noi in questi mesi abbiamo dedicato diverse puntate, o la mattina con Alessandro all'Attenti a noi due, o il pomeriggio la versione di Oscar, una volta anche, anzi due mi pare, su due aspetti diversi. A Conti della Belva, vi do appuntamento domani come tutti i sabati alle 10 alle 12 in diretta a Conti della Belva con me, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Semineri, lo sapete, Renato Cifarelli, ed è un tema fondamentale per i diritti di noi tutti cittadini, e che diventa ancora più particolare poi ovviamente per chi deve informarvi, perché è l'accesso alle informazioni pubbliche nel nostro paese. Ovviamente è un tema irrilevante per tutti, perché tutti hanno diritto a sapere i dati, i procedimenti, le cose della pubblica amministrazione. Diventa poi particolarmente problematico se questa libertà, facoltà di accesso ai dati, ai fascicoli, alle decisioni, all'elaborazione della pubblica amministrazione, delle istituzioni, in altre parole, diventa problematico poi innanzitutto per coloro che, qualunque opinione ne abbiate, devono provare a informarvi, cioè i giornalisti, cioè chi deve scrivere libri, chi deve tentare di trovare delle spiegazioni quando spesso l'opacità, il fumo, la discrezionalità, la mancanza di motivazione la maniera con cui la pubblica amministrazione nel nostro paese, è un problema generale di tutti i paesi, ma insomma nel nostro paese agisce in particolare. Allora, vi abbiamo più volte detto che è in esame nel nostro paese, è stata approvata un provvedimento da parte del governo, che il governo ha molto sbandierato, di cui è molto fiero, che è l'equivalente del cosiddetto Freedom of Information Act degli Stati Uniti, è l'equivalente nella dizione, perché nei programmi che noi abbiamo fatto di volta in volta, mentre procedeva l'iter parlamentare, io vi ho esposto, con l'ausilio di chi lo segue tecnicamente, tutti i nostri dubbi, perché quel testo non ci piaceva manco per niente, come dicono a Roma, nel senso che era un testo visibilmente scritto da chi intendeva sabotare l'intento di disciplinare l'accesso ai dati della PA, perché vi dico solo questa cosa: nella versione che arrivò in Parlamento c'era scritto che bastava non rispondere all'istanza per 30 giorni e il silenzio era un dissenso, non bisognava neanche motivarlo, e poi tutti pippa a casa, hai fatto la tua domanda, hai esercitato il tuo diritto, io non ti rispondo, non ti dico perché e buonanotte. Abbiamo fatto un grande casino, petizioni eccetera eccetera. Adesso un testo che è stato in qualche misura modificato è in attesa di una cosa fondamentale, perché è in attesa delle linee guida che deve emanare l'autorità anticorruzione di Cantone, che è diventata in questo paese risolutrice per tutto, o dicono alcuni la foglia di fico per tutto, perché come ovvio si aggiunge a mille altri controlli amministrativi, civili, penali, della Corte dei Conti, degli organi di vigilanza interni eccetera eccetera. Ma la realtà è che, a differenza di tutti gli altri, ha dei meccanismi di azione quasi in tempo reale, dai bandi di appalto a quelli del procurement pubblico, delle forniture, e quindi in qualche misura è diventata un'ultima istanza, a seconda di come scriveranno queste guide, linee guida, abbiamo parlato sabato scorso a Conti della Belva con un componente corradino dell'autorità anticorruzione, in realtà sapremo se questo testo davvero e in che misura ci consente l'accesso a questi atti. Ma la puntata di oggi, sempre girando intorno a questo tema, e per indurvi, se siete interessati a capirne di più, e attraverso l'esempio di numerose inchieste su molti aspetti della vita nazionale che fanno la differenza tra avere accesso ai dati oppure no, per chi si occupa di economia pubblica nel nostro paese, non avere accesso ai dati per esempio dei contratti derivati accesi dal Ministero dell'Economia in questi anni è una cosa inesplicabile, perché ci viene comunicato un ammontare lordo e nozionale, però l'accesso ai contratti no. Ecco, e questo capite che È come fidarsi del mago della pioggia che ti dice che la pioggia deciderà lui quando viene, ma il tuo compito è quello di dire: se tu me li fai leggere, io capisco se mi stai dicendo una cosa veritiera oppure no. Ma questo vale per un'infinità di esempi. Ecco, allora, se siete interessati a questo, innanzitutto telefonateci per raccontare qualcuna delle vostre impressioni o storie, se avete dovuto misurarvi con una pubblica amministrazione, con le istituzioni che non vi hanno dato accesso a dei dati di cui avevate bisogno, perché ovviamente siete la dimostrazione che stiamo parlando di un problema concreto, non di un'invenzione dei giornalisti. Però per approfondire, capirne di più e sanamente incazzarsi, secondo il mio rituale standard, siamo qui per parlarvi di un libro la cui lettura vi dà moltissimi elementi per capirne di più. A, B, per capire come funzionano gli altri paesi, quando e come è stata disciplinata questa materia. C, per avere tanti esempi concreti di come veniamo limitati nell'esercizio dei nostri diritti dalla ignoranza, perché l'ignoranza di Stato, o meglio i segreti di Stato, sono esattamente il muro contro cui sbattiamo la testa. Ustica, vogliamo parlare di Ustica, di quello che è successo lì, non ne sapremo mai nulla, sono passati 30 rotti anni e così via. Ecco, allora, il coautore di questo libro, che è da leggere se siete interessati a questo e farvi una sana incazzatura e poter giudicare meglio se l'autorità anticorruzione ci soddisferà oppure no, nel qual caso continueremo a rompere le scatole, come ovvio, è qui il coautore di questo libro. Buongiorno. No, devi dire come... Guido Romeo. Oh, Guido. Grazie. Romeo. Guido Romeo, professione? Io sono giornalista e una delle storie che raccontiamo nel libro insieme a Ernesto Belisario, l'altro mio coautore, è proprio la mia, perché ed è quella di accesso, di tentato accesso ai derivati sul debito pubblico. Tra l'altro una non cifra non risibile, perché parliamo di qualche decina di miliardi. Qualche decina di miliardi, cioè stiamo parlando di punti di PIL. Per capirci, esatto. Ovviamente figuratevi se non porto rispetto al MEF e alla luminosa dirigente generale che da anni amministra il debito pubblico nel nostro paese. Da anni e ancora per poco in realtà, esatto. Perché mi risulta che la dottoressa Cannata. Maria Cannata va in pensione quest'anno, infatti e bisognerà vedere chi sarà il successore. Questa è una delle successore. Però siccome negli anni, ovviamente, come sapete, i tassi di interesse sono mutati, non è che erano nell'orizzonte attuale, gli swap, dipende che derivati sono stati fatti, perché quelli che si chiamano plain vanilla in gergo tecnico, esclusivamente per coprirsi dal mutato andamento rispetto alle aspettative dei cambi, sono quelli più, diciamo così, elementari, ma ce ne sono parecchi che vengono fatti poi con dei sottostanti un po' complicati che possono esporre a delle perdite quando si netta la scommessa del derivato, per cui lo Stato ci può rimettere miliardi. E in questi anni è capitato in effetti che di anno in anno, poi attraverso le leggi finanziarie, da una righetta della legge finanziaria apprendessimo che qualche miliardino, ecco, bisognava al nettaggio poi rimettercelo. Ma ecco, noi abbiamo sempre il dato puntuale, però dei colleghi di Bloomberg, Lorenzo Totero e altri, che hanno usato i dati Eurostat, ci hanno mostrato che l'Italia è quella che perde di più nell'Eurozona. Esatto. E tra l'altro perde di più di tutti gli altri. Il MEF dice che, stante l'ammontare del debito pubblico italiano, che c'è poco da esserne fieri, è elevatissimo, è ovvio che noi dobbiamo, per questioni di controassicurazione di sicurezza rispetto agli andamenti di mercato, fare più ricorso a quel criterio. Però è anche vero che poi siamo quelli che ci rimette di più. Sì, però è anche vero che noi abbiamo un debito storico, diciamo, perché i primi, i più grossi, furono fatti, se ti ricordi, quando c'era Mario Draghi, che tra l'altro adesso occupa una posizione, insomma, un po' delicata per andare a svelare contratti sono stati firmati al direttore della BCE, insomma. Sì, e infatti questo spesso è un argomento per il quale poi si viene, per così, per rispetto delle istituzioni, non dico tacitati, ma invitati a una specie di self-restrain, che a me non piace come atteggiamento dei giornalisti. Allora, il titolo del libro è Segreti di Stato. Silenzi di Stato. Silenzi di Stato. Perché tutte le cose che noi chiediamo nel libro, come queste dei derivati, non sono segreti di Stato. Il segreto di Stato è un istituto anche molto importante che noi non contestiamo. No, perché è disciplinato con norme ad hoc su particolari materie, Per carità, noi non diciamo vogliamo svelare gli archivi segreti. Noi abbiamo chiesto, e tutte le storie che ci sono nel libro, dalla mia a quelle sulle scuole, a quelle sugli insegnanti, sono richieste fatte per legge, norma di legge, su cose che non sono coperte da alcun segreto e che non sono diciamo, scusabili con la privacy. E diciamo semplicemente questo, cioè non è la trasparenza, non è un adempimento amministrativo, è qualcosa che serve ai cittadini, alle istituzioni per vivere meglio. Se non la esercitiamo, però diventa un costo anche molto alto, come mostriamo in diverse storie del libro, sia economico che proprio di salute, perché una delle storie che raccontiamo, per esempio, è quella dell'amianto, un paese contaminatissimo l'Italia. Pensate che l'Italia è stato il maggior produttore dell'Europa occidentale e il primo consumatore dopo l'Unione Sovietica, quindi questa roba ce l'abbiamo, come dire, nel DNA, ce l'abbiamo dappertutto. Molti di noi e molti ragazzi ancora oggi ce l'hanno purtroppo in casa, se lo respirano, perché è rimasto nelle strutture. Allora, il libro ha una prima parte in cui appunto si fa la storia di come negli ordinamenti è entrato il principio della disciplina aperta all'accesso. 250 anni fa. E si comincia col 1766. Però di un sovrano. Ecco. Quindi non è questione. Però quella. Siccome stiamo parlando della Svezia, ovviamente, stiamo parlando di sovrani un po' diversi da quelli che siamo stati abituati. No? Non proprio Re Franceschiello dei Borboni, ma neanche Savoia, per carità. Ecco. Però, insomma, 1766. Era il tempo della Lega Anseatica, era decisamente una sovranità illuminata. C'è stata la manina di un prete, perché i preti poi sono importanti nella scienza come nei processi giuridici, di un abate Cidenio, e Cidenio fu la persona che spinse questo testo, che poi Re Adolfo ha approvato ed è nella Costituzione svedese, tanto che la Svezia è stata all'avanguardia senza avere una vera legge, ma aveva questo principio nella Costituzione che è diventato parte della cultura. Cioè, per capirci, quando un cittadino chiedeva una cosa di cui aveva bisogno, aveva diritto, il dipendente pubblico, il funzionario diceva ok, te la dobbiamo dare, quindi abbandoniamo gli altri processi. E veniamo però, scusami, al testo di riferimento fondamentale. Raccontiamo ai nostri ascoltatori brevemente cos'è, come nasce e quali almeno sono i diritti fondamentali che afferma il Freedom of Information Act negli Stati Uniti, che nasce da un dibattito agli inizi degli anni 50, uno non se l'aspetterebbe. Gli anni 50 negli Stati Uniti sono gli anni del meccartismo, dell'anticomunismo, quindi insomma di uno Stato molto pronto a entrare nelle vite dei cittadini piuttosto che rendersi trasparente. Assolutamente, era un periodo molto travagliato negli Stati Uniti. Pensiamo che c'erano i McCarthy, poi c'è stata la guerra del Vietnam, i moti studenteschi, era qualcosa di molto complesso. E il Freedom of Information Act statunitense è del 66, quindi anche quello compie 50 anni quest'anno. Obama ha introdotto una grande riforma, e effettivamente Obama in questa sua opera che sta facendo di lasciare delle grandi eredità, delle grandi pietre miliari. E contro Obama pezzi fondamentali dell'amministrazione americana hanno remato contro. Assolutamente. Contro il suo testo. Lui è riuscito poco prima dell'estate, per questo 4 di luglio, per la festa nazionale, a passare la riforma del Freedom of Information Act, ma è stato un braccio di ferro, tanto che Jason Leopold, uno dei giornalisti che più usa il foglio in America, che è giornalista per Vice, si definisce addirittura un foglio terrorist perché lo utilizza quotidianamente per le sue inchieste, l'aveva etichettato come uno dei nemici del foglio Obama, e per fortuna si è ripreso. Negli Stati Uniti stiamo parlando di accessi di massa, cari ascoltatori, cioè stiamo parlando di un numero di accessi annuali attraverso i diritti del Freedom of Information che sta intorno a 800.000 unità, 900.000 unità, cioè è diventato un pilastro fondamentale attraverso cui i cittadini, non solo l'informazione, ovviamente molto l'informazione, chiede il rispetto del diritto a sapere che cosa. Circa un terzo si stima che siano dai media, diciamo. E poi gli Stati Uniti, naturalmente, dobbiamo confrontarli con l'Europa come scala, perché parliamo di centinaia di milioni di abitanti, poi federale, quindi le foglie a diversi livelli. Però moltissimo serve anche alle imprese, cioè è un fattore, e qui so che sfondo una porta aperta con te, ma è un fattore di competitività. È un fattore di competitività, perché la discrezionalità e l'opacità della pubblica amministrazione, ogni volta che sono in giro, contratti, gare, eccetera, eccetera. Esattamente, hai capito, hai colto, moltissime, più di metà sono le aziende che chiedono che cosa fare, cioè il prezzo della siringa, quanto mi vendi la siringa. No, ma poi soprattutto in un paese, nel nostro caso, pensate, stiamo parlando di 140 miliardi di consumi intermedi, cioè le forniture della pubblica amministrazione, operazione, rendetevi conto qual è l'ordine di grandezza dell'opacità, e basta vedere qual è la percentuale di impugnative, poi naturalmente che blocca tutto, perché la gente ha il sospetto, non sapendo le cose, che ci siano elementi di valutazione discrezionale dalla parte dell'aggiudicatario. Quindi stiamo parlando di un'enorme leva. Però la cosa da sottolineare, guardate, io non vi sto dicendo che gli Stati Uniti sono il paradiso in terra, perché anche negli Stati Uniti la percentuale di nieghi o comunque di documenti dati censurati è purtroppo ancora elevatissima. Sì, la grande differenza, io devo dire, ho cominciato a guardare questo strumento prima del 2010, proprio lavorando con degli americani, che ogni volta che gli chiedevi ma come hai fatto a ottenere questa cosa, diceva beh, ho fatto una richiesta FOIA, sai, ci è voluto un po' di tempo, poi dopo 3 settimane me l'hanno dato, e io sudavo freddo e dice come hai fatto una richiesta FOIA, io cosa faccio, c'era solo la legge 241 di accesso agli atti al tempo, non c'è neanche il decreto Monti. E però la grande differenza che si sente rispetto agli Stati Uniti e anche rispetto alla Gran Bretagna è che ti rispondono, ti dicono no, non lo puoi avere. Per dire, un test anche da ridere è stato fatto da una giornalista americana di un giornale di spettacolo, che ha chiesto, ha fatto una richiesta FOIA a Casa Bianca dicendo ma perché Obama può avere, anzi no, ha chiesto perché ha chiesto di vedere le serie TV in anteprima che HBO passava a Obama, di Walking Dead mi sembra, e gli è stato rifiutato dicendo no, perché le cose che vengono date al presidente sono di esclusivo diritto del presidente, e quindi la tua richiesta è rigettata. Però viene rigettata da noi. Comunque, se uno pensa al rilievo che nella campagna per la presidenziale, in vista del voto novembre negli Stati Uniti, ha il tema, che anche ai miei occhi è di una gravità assoluta, delle centinaia di mail cancellate dal server del Dipartimento di Stato, dall'ex segretario di Stato all'epoca Hillary Clinton, in particolare quelle di cui insomma molti dicono siano particolari molto scottanti su quanto poi avvenne nella rappresentanza diplomatica in Libia americana, con Marines morti, personale civile morto, e sulle responsabilità che quelle mail coprono, ecco, ha un'idea di qual è l'importanza di questo tema. È uno dei delle pietre miliari su cui gioca l'intera campagna presidenziale questa. Assolutamente, ma ecco, per tornare a quello che dicevi tu su come venne formato, su come nacque il Freedom of Information Act, nacque per utilità interna della pubblica amministrazione, perché un deputato democratico, John Moss, che è diventato, devo dire, un mio eroe mentre scrivevo il libro, disse, si lamentò semplicemente, disse ma io non posso avere nessun documento, perché dovevano fare il Consumer Protection Act, dovevano fare un sacco di leggi che sono oggi fondamentali, e chi le doveva fare non aveva il materiale, che l'inferno pubblico sia un po' uguale in tutto il mondo dimostra un'altra cosa. La Gran Bretagna si è data un testo normativo su questo, cosa, a metà degli anni 2000. All'inizio del 2000 è entrato in efficacia nel 2005, nel tanto 2005. Che hanno fatto mentre che doveva entrare in efficacia, pezzi interi apicali della pubblica amministrazione, cioè pezzi del governo britannico, cancellavano milioni di documenti. Sì. Per dare l'idea. Sì. Che poi lo stesso Tony Blair nella sua autobiografia dice ci sono due cose di cui mi pento e che considero degli errori fondamentali nella mia carriera di statista, e uno è il FOIA, mi staccherei la testa per questa. Naturalmente, per aver fatto però, si dice dopo aver consentito che questo avvenisse, perché questo poi è sempre così. Come vedete, gli stati tendono a essere, le pubbliche amministrazioni tendono a essere un po' troppo riservate su quello che fanno, non solo qua, ecco. Quindi io lo voglio dire, nel libro troverete tantissimi esempi. Adesso abbiamo un minuto di traffico e arriviamo al punto in Italia. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in studio, stiamo parlando di questo utilissimo libro per chiunque voglia capire perché abbiamo bisogno di rafforzare la nostra tutela della facoltà di accesso ai dati della pubblica amministrazione nel nostro paese. Silenzi di Stato è il libro, e ci ha raggiunto qui anche il coautore per telefono, Ernesto Belisario, che ringrazio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Non so se hai ascoltato la prima parte in cui col tuo compare abbiamo ricordato come siamo un po' in ritardo su questo, diciamo così, in ritardo di decenni da questo punto di vista. Posso chiedere qual è il tuo giudizio attuale sul testo che è sottoposto adesso alle linee guida da parte dell'autorità anticorruzione? Il mio giudizio attuale è che è un punto di partenza, come tutte le leggi sui diritti e sulle libertà fondamentali. Io credo che non esista e non sia mai esistita, ce lo dimostra il foglio americano, non esistono leggi che nascono perfette, loro lo migliorano addirittura dopo 50 anni e non è il primo tentativo di miglioramento, quindi sicuramente è l'aggiunta di un diritto che non esisteva, dopodiché le linee guida ANAC ci diranno quanto aggiunge, se aggiunge l'1% di conoscibilità o aggiunge il 50%, e quindi come tale punto avremo bisogno di stressarlo da cittadini, da esperti, da attivisti, per capire da subito quali sono le modifiche, perché il bello delle leggi è che le leggi a tavolino possono anche funzionare, poi la pratica, oltre che le linee guida ANAC, la reazione che avranno le amministrazioni, ci diranno quanto questo strumento è funzionale a soddisfare il bisogno di trasparenza di cittadini, giornalisti e amministrazioni. La cosa che a me ha colpito, devo dire a entrambi, è stato che quando è uscito fuori il testo e qualcuno, minoranza siamo stati, hanno protestato per cosa era, per cosa c'era scritto, soprattutto per quello che non c'era scritto, ma anche per alcune cose gravissime che c'erano scritte, la politica è stata molto silenziosa, non ti pare? Sì, la politica, in realtà il tema della trasparenza in generale è un tema che non è di interesse politico. La politica, lo diciamo nel testo, è attenta alla trasparenza in campagna elettorale, in cui promette della trasparenza, ma la trasparenza è intesa come diritto, cioè non intesa come concessione di un sovrano, ma come diritto, come livello minimo che deve essere assicurato, è qualcosa a cui per cultura evidentemente non siamo abituati e forse qualcuno è addirittura allergico, e quindi probabilmente la politica non aveva compreso appieno quelli che erano le richieste della società civile e quello che funziona così come o le aveva capite fin troppo bene. Forse qualcuno sì aveva capito fin troppo bene, ma in realtà io credo che le implicazioni reali, e da questo punto di vista l'esempio che citava prima Guido di Tony Blair mi fa riflettere, e cioè io credo che molto spesso se qualcuno poi si pente dopo l'adozione di questi atti, di questi provvedimenti, perché poi ne viene sottostimato l'impatto, perché non sappiamo quello che faranno i cittadini una volta che verrà utilizzata la trasparenza. Quindi davvero le potenzialità di questi nuovi diritti, di queste nuove norme sono se vuoi imperscrutabili. Qualcuno probabilmente ha avuto paura di aprire una porta. Io dico solo, io mi limito a dire che stiamo parlando, abbiamo fatto l'esempio di Hillary Clinton e delle sue mail levate dal server del Dipartimento di Stato, sarei inconcepibile curioso di capire, se avessimo accesso alle mail ufficiali dei componenti del governo italiano, che cosa ci troveremmo. Questo per dirne una. Ecco. Beh, su questo, per esempio, c'è un'eccezione prevista nel testo, certo. L'articolo 5 bis, che dice che c'è un'eccezione sulla libertà e segretezza della corrispondenza. E allora anche qui bisogna capire di cosa stiamo parlando. Esatto. Stiamo parlando della libertà della corrispondenza privata, forse. Come dire, ha un senso e si spiega con la Costituzione, nel senso quello che dicono con i loro familiari, esatto. Però usando, si tratta di corrispondenza istituzionale, probabilmente questo renderebbe il FOIA davvero un'arma spuntata, quindi su questo è giusto che ANAC e il garante FAIR ci dicano con precisione, perché se no su quello altrimenti noi non schiediamo molto della verità. Io tra l'altro ringrazio entrambi, sia Ernesto Belisario che Guido, perché uno dei capitoli in cui si ricostruiscono le inchieste giornalistiche in cui più sono esemplificative anche per il lettore non troppo appassionato magari di giornalismo investigativo, è dedicato a uno degli eroi del gruppo Sole 24 Ore, cioè Claudio Gatt, che ha messo a segno appena anche un altro dei suoi colpi, naturalmente sulla Fernante. Detto questo, voi siete abbastanza fiduciosi? Sì, se no non mi impegnerei nella cosa. È una lotta molto in salita, però, questo certamente. Ernesto, anche tu sei abbastanza fiducioso? Sì, perché le storie del libro, noi abbiamo scritto proprio perché queste storie, anche se sembrano abbastanza forti e descrivono una situazione impietosa, però danno l'idea. Grazie a loro siamo riusciti. Esatto, grazie a loro. C'è un buon giornalismo e voi sicuramente, voi, non io, che sono l'ultima ruota, ne siete parte. Io vi ringrazio, comprate e leggete, appunto, Silenzi di Stato. Appuntamento domani da 10 alle 12 su...